Radio Fly Web, fuori di testa, ma dentro il tuo cuore. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Amaci, amaci, poi ascoltaci. Amaci, poi dopo riascoltaci. Stringici, dacci le braccia dai tendini, oh yeah. Prendici, poi dopo carezzaci, hey. Jerry, parlaci e dici aneddoti. Alberto, vieni e poi raccontaci. Cveglia, apri i social negli angoli. Massimo, apriti e poi incuffiati. Tiziano, accendi i microfoni. Tiziano. Sì, Tiziano anche questa sera ha acceso i microfoni, cari amiche e amici di Radio Fly Web. Questa sera siamo in diretta qualche minuto prima perché abbiamo un ospite che vogliamo spremere la partita, vogliamo sentire tante cose. Poi, da lei. Poi ci sono anch'io stasera. C'è anche Tiziano Gallo che l'altra settimana non c'era perché no. Doveva, lo sa perché non è venuto? Sì, lo so, però me lo dica lei perché tanto. Perché doveva tagliare le spuzzole. Le spuzzole è un famoso fungo. 250 kg di spruzzolate. Ho fatto delle spruzzolate sti giorni. Esatto. Che salutiamo Massimo Zoli, che è l'altro regista. Dopo poi presenterò. E perché non è venuto? E c'è un motivo. Deve attaccare, che la moglie è una collezionista di francobolli. Deve attaccare 7500 francobolli. Penso un po'. Penso che finirà dopo un'ora finirà la gola, cioè hai capito? È lì che perché i francobolli ci No, ma c'è la bottiglia d'acqua lì vicino. No. La moglie vuole con la lingua. Però se dovrà, la moglie ci deve attaccare i francobolli. Si dovrà pure lubrificare un po'. Zoli, buona. Se no la moglie lo chiude. Va bene, andiamo avanti. Intanto Emanuele Gregrilli è qua, la nostra guardia del corpo, ma soprattutto con noi questa sera c'è una grande ospite, una debuttante. Sono contentissimo quando c'è una giovane vicino a me, una giovane. Solo Arie. Buonasera. Oh, vedete che bella voce giovanile, è fantastico. Allora Ariel è qui con noi perché stasera solo Ariel ci presenterà il lavoro che è appena uscito, cioè questo album con 5 pezzi. È la prima uscita, la prima esperienza per lei, perciò è tra l'altro bravissima perché ci farà qualche pezzo, anzi molti pezzi ce li farà in diretta. Perciò la vedo che è già contentissima di quello che è artista, davvero artista. Va bene, dopo vediamo come cosa ci regalerà. Ma io direi di partire adesso. Sì, dai. La prima domanda. Allora, noi adesso partiamo col primo pezzo, che è l'unico che forse sentiremo registrato, forse, dopo decidi tu. Questo pezzo che intitola Stato d'animo urlato in italiano, ma in inglese, perché dovete sapere che Ariel, solo Ariel, canta in inglese. Sentire. Una domanda prima di perché in inglese? Perché trovo molto più spontaneo esprimermi in lingua straniera, stranamente, essendo italiana, quindi sì. Però... Però Elisa è uguale, anche Elisa, sì. Sai che Elisa sì. Per molti anni si è rifiutata di cantare in italiano, poi con Luce però ha vinto il festival, perciò bisogna anche qualche volta... Beh, allora io direi di sentire questo pezzo, poi facciamo una bella chiacchierata, e io adesso lo dico nel mio grande inglese. Occhio, eh! Scream State of Mind. Non c'è male, dai. Solo Ariel, vai. Hold your hand in mine, yeah. Like I answered again after all this time. Hold me tight, hold me tight. Never mind, I'll find another guy. Oh, I wish you could. see me naked tonight. Oh, I wish you could stay in bed. And I lay down, and I lay down, and I lay down, down, down as much as you try. Your hand in my ear, yeah. Ooh, like I never give up after all these weakness circles. Check the outcome, spin my head low to your mind. See me naked tonight. Oh, I wish you could stay more. Oh, I wish you could stay more. And there's this place I wanna take you to. It's my heart. Watch me down, down, down, as much as you drown. Kiss my lips, I'll do it again. Oh, I just would love to know, what if I ecco qua questo primo pezzo, stato d'animo urlato in italiano, ma in inglese è la traduzione che sarebbe, che poi non è urlato, una bellissima voce. Questa è una canzone che è molto bella da sentire, per esempio la proverò sabato, perché io sabato ho l'abitudine di fare delle passeggiate, di fare la corsa lenta. Questa è fantastica, me la metto, hai capito, mi sento tutto l'album, perché l'album, devo dire la verità, è tutto su questa emozione, su questa musica che mette emozione. Bravo, grazie. Ciò, farò senz'altro qui 4-5 chilometri sentendo la tua, il tuo album, il che vuol dire che ascolterà tutto l'album, perché va molto sì, piano, tutto quindi. Sono 5 vabbè, no, vabbè, vabbè. Andiamo, no, allora, no, è bello, brava, mi è piaciuto sto pezzo, molto piano, qui c'è molto piano, infatti è musica e parole. Sì, brava. Perché guarda che non è facile, musica e parole, E poi là, leggendo la tua, diciamo, storia, ho visto che tu sei anche autodidatta. Sì. È importante. Ma come nasce uno che la mattina si alza? So che è legata al fatto del tuo bisnonno, no? Sì. Però da un momento all'altro dici, ma io voglio fare la cantante, voglio fare la musica, la cantautrice, voglio fare musica. Allora, è stato molto strano entrare in questa parte della mia vita, che comunque adesso poi diventerà, spero, quello che farò per sempre. È stato molto impulsivo. Ho proprio preso la chitarra, anche se non avevo mai toccato una chitarra in tutta la mia vita, e avevo obbligato quasi mia madre a insegnarmi a suonarla, solo che lei non suonava la chitarra, perché avevo quasi questo bisogno di esternare in quel momento tutto quel dolore che avevo dentro per la perdita del mio bisnonno. E quindi è questa, secondo me, la magia della musica, che comunque dà sempre un grande scoglio su cui appoggiarsi se si ha bisogno di qualcosa. Facciamo i complimenti anche alla mamma che ha appoggiato, perché oggi come oggi è importante anche avere l'appoggio, certo, dei genitori. Io lo dico perché c'è un figlio della tua età e gli ho sempre detto: devi fare non quello che ti pare, ma quello che ti piace. Se uno della vita riesce a fare quello che gli piace, è esatto. A posto. Perciò ti auguro di fare nella vita quello che ti piace. No, grazie, perché mille. Dopo non è più un lavoro. Fai quello, esatto, che ti piace, non è un lavoro. È vero? Allora, noi adesso, così, che una puntata dedicata alle cantautrici. Io, lei è una cantautrice, adesso farei sentire un pezzo di una grande cantautrice italiana che si chiama Teresa De Sio. Teresa De Sio, che con questo pezzo un po' italianeggiante, ma soprattutto napoleggiante, perché è cantato in dialetto napoletano, che poi secondo me il dialetto napoletano non è un dialetto, ma è una lingua, la lingua napoletana. Ci andiamo a ascoltare. Quando sei pronto, Tiz. Aum! Aum! Perché te lo dico qua? Un grande pezzo, un grandissimo pezzo veramente di Teresa De Sio. È un po' dimenticata questa artista, peccato, perché è veramente un tipo di voce fantastico, e qui con questo pezzo ebbe un grande successo, veramente fu un grande successo quell'estate, piacque molto. Aum, aum. Bene, torniamo a noi, torniamo con solo Ariel che è qui in studio con noi, ci fa compagnia in questa bellissima serata e tra un po' ci farà compagnia ancora in modo più bello perché saremo live. Saremo live a breve. Adesso intanto parliamo ancora di questo. Sì, va bene. Di questa, quella giusta tensione. Esatto. Allora, siamo arrivati al punto che siamo arrivati alla storia iniziale, che perciò decidi di fare musica. Sì. Cioè, una decisione importante, da autodidatta impari la chitarra, perciò ore. Sì, sì. Perché la chitarra ci vogliono ore. Sì, i calli. Bravo. Sì. E questo vuol dire tanta passione, tanta voglia di fare qualcosa, molto bello questo. E dopo c'è il primo esperimento, ma su questi 5 brani che andremo a sentire stasera, uno l'abbiamo sentito. C'è anche il primo? No. L'hai scartato, perché tutti quelli che sono stati ospiti, il primo non gli è mai piaciuto. Ma il primo mi è piaciuto, solo che non, diciamo che avendo registrato delle demo in un altro studio prima di fare questo EP, non l'avevo mai registrata l'altra canzone. È proprio un inedito che spero un giorno di registrare. Però... Non buttare mai via niente. No, no, assolutamente. Tieni da conto tutto, perché non si sa mai. Esatto, sì. Anche se il primo, perché dice, ma il primo non mi sembra. Tienilo lì, non si sa mai. Sempre perché ci sono delle storie di cantautori che certi brani li avevano messi da parte, poi magari li hanno tirati fuori. Sì, li riarrangiano. È venuto fuori un pezzo incredibile, E questo è il bello della musica, no? Delle volte mi ricordo quando si parlava di Lucio Battisti che puntava 10 ragazze. Il titolo del pezzo era 10 ragazze, che doveva essere il lato A, ma il lato B che era Mi ritorno in mente. Pensa, e Mi ritorno in mente è stato un pezzo, secondo me, micidiale, perché passa dal basso, da un momento basso e si alza per 2-3 volte. È una canzone eccezionale. E il lato A doveva essere 10 ragazze, che è la canzoncina, cioè delle volte, sai. È bello questo. Allora, andiamo avanti con le cantautrici. Adesso non so se questa la conosci, Patti Smith, penso di sì. Sentita. L'hai sentita? Sicuramente. Allora guarda, questo è un grande pezzo. Adesso te lo faccio sentire. Andate a cercare, ti do un consiglio. Vai a cercare anche qualcosa dal passato. Patti Smith, Frederick. Lay it back. Patti Smith, che tanti anni fa vidi a Milano, grande veramente Patti, unica nel suo genere, una grande artista che recentemente è venuta in Italia, ha fatto anche diversi spettacoli, uno l'ha dovuto fermare perché ha avuto un malore, però grande artista, Patti Smith, anziana ma ancora valida. Allora siamo qui con Ariel, solo l'Ariel. Allora, c'è stato l'altra settimana che ho detto, perché non avevo guardato bene il nome per fare una risata, Ariel, non avertene male, non avevo detto solo Ariel, avevo detto che viene Ariel, allora c'era il regista dell'altra settimana, fa, ma chi è la sirenetta? Sì. Perché avevo detto Ariel, non solo Ariel, capito? Poteva anche dire si è svampato signor, ti lo ricordi che era Ariel il servo il domestico, si è svampato signor, vabbè. Ma basta così, chiudo, vabbè. Allora senti, siamo qui, allora perciò questo album è partito, noi dopo sentiremo appunto i pezzi. Allora io vedo dei titoli, faccio una domanda adesso, che leggendo i titoli tradotti in italiano, chiaramente, perché tu giustamente li hai fatti tutti in inglese, perché in effetti devo dire che hai una bella pronuncia anche in inglese, sei brava. Grazie. Però vedo i titoli tradotti, per esempio questo qui, Lack of Interest, mancanza di interesse, no? Ho un altro titolo che l'ho sempre tradotto, che dice Le ultime cose che ti dirò, insomma c'è in questi pezzi, che un po' mi sono, in questi giorni ho sentito, nasce, si sente che c'è un pochettino di denuncia di malessere. Sì. Ci ho preso? Sì, guarda, sì, assolutamente. No, perché vedo, cioè tu lanci qualcosa, vuoi dire qualcosa a queste canzoni? Sì, io racconto me stessa, però ci tengo anche a quasi confortare chi mi ascolta, come se dovessi dirgli che non è solo, che ci sono tanti sentimenti che possono tranquillamente passare col tempo, che è difficile, però... Ma guarda che è bello, perché quando uno fa delle canzoni che poi magari chi lo ascolta si riconosce in quella canzone, deve essere... Sì, quello è l'obiettivo che vorrei... È molto bello questo, sì. brava Aria. Devi sempre trasmettere le tue emozioni nella musica, è un consiglio, è perché le emozioni, se sono vere, poi si sentono anche nella canzone che fai. È molto importante. Perciò continua così, non fermarti mai, quando senti che devi fare qualcosa, anche se hai fatto 8 canzoni in un giorno, ti senti di farne altre 5, continua a farle, non fermarti, perché magari quel giorno è un giorno che ti viene, che frutta, sì. Esatto, è un giorno che sei ispirata e butti dentro tutto quello che devi mettere. Brava, bene, andiamo avanti, adesso andiamo avanti con la grande Gianna Nazionale, con questo pezzo meraviglioso che intitola I Maschi, rimasterizzato. Vai! Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. I maschi disegnati sui vetri confondono le linee di miro e le vetrine dietro ai bisogni. Carezza della notte, quasi amore. già che cosa avrai di più quando passerà. Il cuore si scatena, mi va sulle scale, poi te lo darò quello che sento. Parlami ancora un po'. I maschi innamorati dentro ai bar si chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza della notte è quasi amore. Grande Gianna Nannini, siamo tornati qui in diretta in studio, siamo pronti con Ariel. Siamo, poi questa esibizione la faremo vedere stasera o domattina nella pagina degli ascoltatori di Radio Flyweb e il suo live, avremo 3-4 live. Allora, parliamo di questo pezzo che intitola You Are Still Alive, che vorrebbe dire sei ancora vivo. Vogliamo dire qualcosa su questo pezzo prima di partire, guardando la telecamera? Questo pezzo l'ho scritto in un momento in cui mi sentivo di non essere tanto presente e mi sentivo quasi solo di sopravvivere più che vivere, e quindi ho voluto anche denunciare questa cosa a chi si sente così, a chi certe volte si sente di sopravvivere o di esistere ma non di vivere i momenti della propria vita. Allora, io ti voglio presentare come a Sanremo, di solo Ariel. You Are Still Alive, canta solo Ariel. Vai. Black ghost and bring you go away. Back where you're from to me's the same. Wonder why you still think you're like me. Wonder why you still think you're like shit. And I highly, highly recommend you, even if sometimes it's hard for you. So many things you should love about yourself. Oh, so many personalities people can have. And I hardly, and I hardly get by with those. Oh, you dig it dark, but nothing ever changed. Maybe it's just the fact you hate yourself. And I learned so many things from you. I know you ask why things never get through. Maybe you thought that life couldn't be so bad sometimes. I know how you must have felt when you found that everything out of love. Oh, you just need to be loved. And I wish you could tell me more of you. Wish you could love yourself as much as I do. Tonight we would like. Tonight we would like. If you just were mine. If you just were mine. If you just were mine for a night, for a night, at least try. You're still alive. Brava, brava Arie, brava, brava, brava. Grazie. Perfetto, perfetto. Grazie. Bella voce, brava. Bella canzone, veramente. Fa mette emozione. Faccio, faccio i complimenti perché è un bel pezzo. E allora adesso continuiamo a parlare, adesso passiamo alla prossima interprete, diciamo, che abbiamo scelto, che ha una voce anche lei molto molto bassa, molto molto bianca, lasciamo molto quella suspense molto bianca, molto bianca, e lei si chiama Kate Bush. Allora abbiamo già detto tutto, no, non dico neanche il titolo perché è un pezzo famosissimo. Andiamo anche perché è meglio che non lo diciamo, dai. No, ma lo dico anche. Dai, lo diciamo. Pronto, sei pronto? Wolfsring. Oh yes. Vai, Kate Bush. Yeah! live, abbiamo avuto un attimo un blackout, colpa di un piccione viaggiatore, che qui abbiamo dei piccioni che girano, capito? Può darsi che sia stato anche quel gabbiano, perché c'era anche il gabbiano. Oh, ho visto una scena prima, un gabbiano, non so se voi l'avevate visto, un gabbiano di 1,5 metri, cioè gigante, cioè una roba paurosa, con sto becco che si è infilato in sto cestino, ha buttato fuori tutto. Wow, una scena da incubo, mi sembrava di essere nel film I Gabbiani di Alfred, cioè da prenderci paura. Oh, non aveva pure di niente sto gabbiano, gli ho fatto anche il verso del gabbiano, lo sa il verso del gabbiano? Cosa? Lo sa il verso del gabbiano? Au! Au! Niente, è continuato a... niente da fare. Vabbè, scusate, ma stiamo raccontando anche fatti di vita vera, scusa. Questa è una trasmissione così, sappilo, è un po' strana, Bene, siamo tornati in studio live appunto con Solo Aria, è bellissimo quel pezzo che ci hai fatto prima. Allora, parliamo ancora di te. Adesso il prossimo progetto, cioè cosa succederà a breve nei prossimi giorni? C'è qualcosa che c'è qualche qualcosa che succede? C'è qualche idea che devi fare? C'è qualche... Allora, nei prossimi giorni no, però... prossimamente mi hanno detto che dovrebbero esserci delle date eventualmente. Perfetto. ti seguiremo e ti faremo anche pubblicità, eh? No. Cosa? Niente. Ah, no, perché qui interagiamo anche con il regista, qui è meraviglioso. E allora adesso noi andiamo avanti sempre con le cantautrici, adesso qui andiamo con Paola Turci, e ti dico perché ho scelto questo è un pezzo, caro Tiz, che Paola Turci ha presentato a Sanremo, Fatti bella per te. Allora devi sapere una cosa, Ariel. Paola Turci, non so se tu, è una grande cantautrice italiana, ebbe un brutto incidente in auto e la faccia si rovinò, una parte della faccia, no? Lei per tanti anni andava a cantare nei concerti facendosi la frangetta e non faceva vedere la parte del volto deturpata, no? Perciò la sofferenza non solo per l'incidente avuto, ma vuol dire che non si accettava. Il bello di quel Sanremo lì, fece una cosa meravigliosa, si presentò a viso aperto finalmente, perché a mostrare il suo volto vero com'era, e fece questa canzone. Da quel momento lì Paola Turci ha migliorato sia la produzione sua musicale, ma anche la sua vita, perché nascondere questo volto la faceva, diciamo, non voleva farlo vedere, capito? Facendolo vedere quella volta, facendo questa canzone Fatti bella per te, scoppiò e uscì da questo momento che durò anni, perché l'incidente è successo tanti anni fa, ed è rinata. Perciò ci ascoltiamo questo pezzo presentato a Sanremo, Fatti bella per te. E sei più bella, le mani stanche, e sei più bella, con le ginocchia sotto il mento, fuori piove a dirotto, qualcosa dentro ti si è rotto, e sei più bella, sopra pensiero, tutto si ferma, ti vesti in fretta, e sei più bella, e dentro hai una confusione, hai messo tutto in discussione, sorridi e non ti importa niente. Sei più bella e finalmente ti lasci andare, apri le braccia, ti rivedrai dentro una foto, perdonerai il tempo passato e finalmente ammetterai che sei più bella. Sei un'emozione, ti cambia anche il nome, tutta la ragione. davvero tu. E sei più bella quando non ci pensi più. Paolo Tucci, questo grande pezzo che ebbe un grande successo a Sanremo, non so se ve lo ricordate, qualche anno fa, era un suo ritorno, e un ritorno che gli ha portato poi fortuna anche nella vita, e si è tolta appunto questa frangetta che le copriva questa ferita che aveva avuto in volto, perché uno non deve aver paura di mostrarsi per quello che è. Ha ragione lei, ci ha messo un po' a capirlo, ma non, è, non deve essere neanche facile, attenzione, perché magari te pensi che gli altri ti guardino in un certo modo, e, insomma, vabbè, è una storia che abbiamo raccontato. Torniamo a noi, torniamo al presente e al futuro, a solo Ariel, che è qui con noi, questa ragazza che si è buttata in questa esperienza musicale personale. Allora, adesso abbiamo parlato di questa cosa qui, no? Del fatto del, di questo regalo che il nonno, il bisnonno aveva fatto alla mamma, però la mamma, tua mamma non, non si mise a suonare la chitarra, e te avevi sempre questa chitarra in casa, e la scomparsa del bisnonno ti ha avvicinato alla chitarra. Guarda che storia bella, esatto. Questa qui, meravigliosa questa storia qui. Perciò è come se la chitarra ti chiamasse. Esatto, eh? Sì. Ti chiamava questa chitarra, diceva, ma mi vuoi suonare o no? Vabbè, guarda che bella questa storia qui, è fantastica. E dopo è nata, appunto, sei partita con questa, diciamo, cosa dicono, cosa hanno detto? Mi piace anche sentire, i tuoi amici. Dell'album? No, ma no, gli amici proprio, quelli di scuola, quelli della vita, quanto ti sei messa a fare sta cosa, ma cosa hanno detto? Dai, coinvolti? Diciamo che ero molto solitaria, quindi, però comunque chi scoprì che suonavo la chitarra, cioè, rimase colpito abbastanza, perché comunque non cominciai quando avevo 12 anni, quindi sì, qualche amico che suonava con me ce l'avevo, poi ho avuto anche una band rock in una scuola di musica. Vedi. Sì. Quindi, quando poi parlavo delle band prima ci illuminavano gli occhi, ecco perché. Però sì, ecco, certe persone sono state molto di supporto. Ecco, ma è importante. Quindi, anche le persone, sì, coinvolgere e magari, insomma, avere anche qualcuno che magari ti dice anche delle cose che magari possono anche servire, magari che non c'entrano niente con la musica, ma anche poi con altre cose. Allora, andiamo avanti ancora con le nostre cantautrici e adesso torniamo all'estero, questa puntata dedicata alle cantautrici, andiamo con una richiesta fatta da Emanuela Andrea Grilli, la nostra guardia del corpo, che ci ha chiesto questa Annie Lennox con questo pezzo che intitola I Put a Spell on You. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying. You're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine. Thank you. Fantastica, veramente esibizione anche questa. Torniamo a noi, torniamo ai nostri live con solo Ariel. Allora qui abbiamo un altro pezzo. Vogliamo parlare un attimo prima di partire di questo pezzo, che in italiano le ultime cose che ti dirò, the last few things tell you. Cosa vuol dire? Cosa vuoi dire con questa canzone? Ti ho fatto una bella risata proprio. Ma devi sorridere, ma guarda quando sorride è ancora più bella. No, perché lei l'hai pronunciato benissimo. Esatto, quando sorride è ancora più bella. Vai avanti, dimmi pure questa canzone. Diciamo che è quasi un messaggio che non potevo dire a una persona in particolare, perché non parlavamo più, e quindi diciamo che gli scrissi questa canzone appunto per potergli dire le ultime cose che avevo da dirgli. Ma gliel'hai cantata? Sì. Oh, la mia soddisfazione è quella, gliel'hai detto in faccia, le ultime cose che ti dirò, e vai. Oh, bravo. E allora ce lo andiamo a ascoltare live. Sì. Vai, the last few things tell you. Vai. Wake me up at 3 a.m. Even though I died, time heals. Wasn't I enough for what you love? Was I too much? While we were sex to you right, while we were sex, am I right? It looks like it was a long time ago. I remember you chosen me for what I was. I remember you choking me with your hand. Lay your head on me. Say goodbye to Monday spent crying on the train. Say goodbye to all the croissants and the cigs at that cafe. Say goodbye to all the goofy times, and say goodbye to the aunt. It looks like it was a long time ago. I remember you chosen me for what I was. I remember you choking me with your hand. Lay your head on me. keep saying it's because of me, even though we know it's not my fault. Sorry if I fucked up one more time. Bravo Ariel, brava, bravissima, brava. Questo pezzo tratto da questo ultimo lavoro. Ho visto che c'è un che vuole intervenire, ma perché lo fate entrare? Deve intervenire, cioè vuol dire qualcosa Barry Knight. Ma perché lo fate entrare? Io voglio capire perché Barry Knight. Ma proprio questa puntata non qui, l'ha chiamato proprio nessuno. Cioè non, ma com'è qui che è qui? Non lo vedo. È qui, sta entrando. Sta entrando. Posso entrare? Eccolo là. Oh yeah, che bella pezza che ho sentito. Bella pezza. Un bellissimo voce, brava. Io ciao, sono qui presento, sono Barry Knight. Sai, io abbiamo abito, un contratto, lo dobbiamo io firmare. Abito sotto ponte di Forlì di Schiavonia. Mia casa è, mio tetto è ponte. Oh yeah. Ho sentito questa musica bella e questa voce inglese. Io che sono americano ti posso dire che hai una bellissima voce. Ok. Grazie. Complimenti, io adesso posso andare. Volevo dire questo. Ciao a tutti amici di Radio Flyweb. I love music. Ma vada via, tutte le volte, scuso tutte le volte abbiamo questo personaggio che entra qui, che gli hanno fatto un contratto, ma si rende conto, gli hanno fatto un contratto, Barry Knight, vabbè, pazienza. Vabbè, pazienza, andiamo avanti. Ma tutto su, l'avete fatto entrare? No, va bene, ascolta, cosa c'è? Avevamo fatto una bella puntata, eravamo belli tranquilli, un bellissimo ospite, una gran bella musica. Cosa devo fare? Mi scuso. Proprio, ci dobbiamo proprio scusare. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, adesso noi andiamo sul prossimo pezzo italiano. Sì. Vogliamo proporre questa cantautrice. Chi è? Come chi è? È Madra. Ah, ok, ecco, sorpreso. Con il pezzo presentato l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo, saremo il bene e il male. Madame! Visto dopo tanto tanto tanto tanto tempo, come previsto tu eri tanto tanto tanto tanto bello con te. Hai cominciato a parlare, mi aspettavo, mi mancavi. Invece hai parlato tanto tanto tanto tanto tanto amore, quello che ti ho dato. Se la memoria non mi inganna, quanto ti sei ingarbugliato nel pensare che ti volessi male. Nelle tue idee alla fine sbottato hai detto guarda, amore tu sei, sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita. Amore tu sei, sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita. Amore tu sei, sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli. Ancora tu sei la puttana che ha ridato in senso ai giorni. Nel bene e nel male sei bene e sei male. Vive nel bene e nel male, fai bene e fai male. Quanto bene e male, nel bene e nel male. Sono fatti per rifarli ancora tu. Sei la puttana che ha ridato un sogno. tanto tempo, ma non tanto. L'unico sei tu con cui ho fatto l'amore, facendo l'amore, amore tra tutti. Ho pagato il mio corpo a parole, parole dolci, sarò una puttana, ma sei peggio di me, perché di tutto quello che ti ho dato potevi tenerti tanto, tanto, tanto di quel bene. Se amore di bene, nel male, bebe di bene. Se amore di bene, nel male, un po' di bene. Se amore di bene, nel male, che ti ho dato sono l'importante, sempre del bene, nel male. Madam, che sta avendo un grande successo anche come cantautrice, infatti il pezzo di Sanremo, le parole, il testo, la noia è di Madam, lo sapevate? Diciamo una ragazza che ultimamente sta spaccando, sold out tutti i suoi ultimi concerti, tutti sold out. Bisogna all'inizio non mi convinceva, però più passa il tempo devo dire che è un artista che ha dei numeri, anche se la musica è molto elettronica, cioè, però bisogna lasciare stare. Come non mi convinceva Mahmood, che invece adesso mi sta convincendo, all'inizio magari poi dopo, se poi cos'è la cosa che ti dico, se uno è bravo poi alla fine viene fuori, è vero, sei d'accordo? Sì. Se sei bravo prima o poi viene fuori, delle volte poi, qualche volta prima, però sì, uno deve andare avanti, credici, perché se non ci credi te chi ci deve credere? Poi è chiaro che ci vuole anche della fortuna, soprattutto nel mondo della musica, in cui ci sono tante, tante produzioni, e ogni giorno ne scappano migliaia, si può dire, cioè è anche difficile. Però noi dobbiamo andare avanti e crederci, è vero? Dico bene? Sì. Sempre. Torniamo a parlare appunto del... Ecco, adesso voglio sapere una cosa da te, da radiofonico. Chi sono gli artisti che ti piacciono e che magari vorresti... Cioè, che ti hanno un po' aiutato, diciamo, nella tua... C'hai qualche artista? È molto difficile, però... penso Billie Eilish... E mi ci rivedo molto per certe cose musicalmente e, È sempre in inglese, tutti inglesi, ma non fanno mai il nome di un italiano. No, musica italiana ascolto, dai. Però non c'hai uno che dici quello mi piace, quello. Ma sì, però che mi abbiano più che altro ispirata, ma in generale inglesi, sì. Questo modo che hai di suonare la chitarra ha un nome, perché vedo che tu dopo hai molto... È l'arpeggio. L'arpeggio, sì. Infatti è un modo che diverso di suonare la chitarra. Sì. E non lo do per il plettro, ma do per il suono... Allora, per l'arpeggio il plettro si usa più che altro con l'elettrica, però comunque non uso il plettro perché, cioè, essendo autodidatta... Sì. Se impari male a suonare col plettro, dopo un casino a aggiustare il movimento, quindi non l'ho mai usato per quello, per la paura di imparare male, e mi trovo molto meglio senza, quindi poi comunque i miei pezzi non sono suonati in chissà che modo, cioè sono tutti arpeggiati o molto, come suoni, molto bassi, molto suavi, bassi, quindi una voce molto... Sì, quindi il plettro suonerebbe un po', secondo me, certo. Quindi no, forse è meglio che non lo usi. Mi ha colpito questo modo di suonare la chitarra, questo arpeggio, che è un pezzo che non lo vedevo, l'avevo visto l'ultima volta in Spagna. Ah sì. E usava le unghie. Sì, ma infatti si dovrebbe avere le unghie lunghe nella mano destra. Una roba incredibile. Abbiamo avuto anche l'ospite Carlo Calderano. Mamma mia, ragazzi, lo salutiamo. Mamma Carlo mia. Calderano è un mostro con la chitarra, cioè la chitarra parla. Cioè lui poi viene dalla scuola proprio spagnola, no, è italiano, ma ha abitato 20 anni a Barcellona, lui ha proprio imparato. Anzi, consiglio di andate a vedere le serate che organizza Carlo Calderano, veramente un grande guitar man. Carlo Calderano, ciao Carlo, ti voglio ancora in studio, col grande duo, sai, il duo con la grande cantante, ti ricordi che è venuto con quella cantante, molto brava, il duo Encantados. Bene, andiamo avanti. Adesso parliamo di una grande artista che molti non la conoscono. Pensate, questo nome, ti dico solo il nome, poi parleremo dopo del titolo, dal nome sembra un maschio, invece no, Steve Nicks, ascoltiamola. L'ho trovata? Io lo sapevo, vai. Eccolo qui, questa cantante, che molti voi pensavate che era un cantante, invece è una cantante, Steve. Bene, abbiamo scoperto anche lui, anche lei. Siamo tornati qui in studio ancora. Adesso stiamo qui sempre con Ariel, solo Ariel, no, il suo nome è Ariel, nome diciamo della vita privata, però lei si presenta come solo Ariel. Che è un po', è bello questo presentarsi come solo Ariel. Tu quando ti presenti così è come se dicessi faccio un passo indietro, sono solo Ariel, così? Sì. Ma guarda che è bella questa cosa, cioè è come per dire ragazzi io sono solo Ariel, brava, perché dà anche un senso di non di, di essere montato, diciamo. No, potrebbe anche essere, potrebbe anche essere solo Ariel, tanta roba, voglio dire. No, però secondo me basso io, insomma, no. Sentendo la musica che canta lei, invece per me lo vuol fare con sì, anche secondo io me. Io sono solo però, Ariel. Ma sì, cioè, diciamo che solo dire da lei. Per quello che sono, è così? Sì, esatto, cioè penso che la, sì. la musica poi, la mia musica sia quella che deve presentare la persona che sono, più che io. Esatto. In genere. Sono Ariel. Quindi sì. Esatto. Allora, proprio tratto da questo bellissimo album, che sono 5 pezzi, ma adesso gli album, sapete, una volta gli album facevano 15-20 pezzi, adesso escono con 5. Tra l'altro il mercato di questi album adesso penso che i CD non ci siano più, non ormai tutto, Spotify, penso, no? Sì, però io, cioè noi stiamo provando a stampare copie. Stai stampando i CD? Sì, sì, sì, dovremmo stamparle. Ma sì, perché la grande cavolata che non capisco io è che le macchine nuove non hanno il lettore di CD. Cioè, io non capisco questa cosa qui, però vabbè, dopo. Perché è tutto in digitale, con una chiavetta ci metti 74 ore però di musica. Se l'artista faceva il CD, non sono tutti come me che hanno in macchina 84 CD sotto i sedili dappertutto. Tre puntate fa è venuto a trovarci un grande artista pugliese, però trapiantato Forlì. Vito Muschitiere, grande. Che salutiamo. Ciao Vito. L'ultimo brano, tra l'altro, molto bello, bravo Vito. Lui il suo sogno pensa è fare il vinile, fare un vinile. Sì. Fare un vinile. Vorrebbe fare il vinile, però costa molto. Fare il vinile costa molto. Beh, quando abbiamo fatto piccola parentesi, abbiamo fatto la parentesi al Naima sì. con Giacomo Toni. Sì. C'era il suo, diciamo, l'album? No, management, insomma, come si dice? Sì, quanto vendono i gadget. I gadget, bravo. Insomma, le maglie. E aveva fatto anche i vinili. Certo. Erano bellissimi. Sì. Cioè, la gente che guardava ste cose come se fossero delle entità. Ma c'è un ritorno al vinile. Bellissimo. C'è un ritorno. So che ci CD e vinili. Molto bello. Allora, adesso ci sentiamo tratto appunto da questo ultimo album, e stavolta lo sentiamo la versione registrata di Ariel. Ci ascoltiamo, in italiano vuol dire rimanere, in inglese stay. Ce lo andiamo a ascoltare in questa bellissima versione registrata mentre la sta cercando Tiz. L'ha trovata? Lo sapevo, perché lei non sbaglia mai. Stay. I was thinking why you clearly don't wanna stay. I don't know. I just hide. Stay with stay, rimanere, stay, bello questo pezzo. Sì, mi farò tanti chilometri sabato sentendo questa musica, perché fa, ti rilassa anche. Questa è una canzone che rilassa molto, stay, Sì. Ti dà un senso di benessere, di... perché la musica serve anche quello, serve anche a dare sensazioni, dare... L'ho sentita parecchie volte in macchina questi giorni, questa è una che l'ho sentita, penso di aver ascoltata stay 5 volte. Beh, sì, grazie. No? Sì, sì, è una di quelle che mi è piaciuta di più, sinceramente. Grazie. Bene, torniamo a parlare di te, Ariel. Adesso in questo momento tu cosa fai? Vai a scuola, vai... Sì, sto finendo il liceo, sono al quinto anno. Liceo classico? Artistico. Liceo artistico, beh, per forza, era chiaro. Che idea c'hai adesso? Dopo il liceo? Dopo il liceo. Mi piace fare anche delle domande ai giovani. Pensavo di andare in America 6 mesi, sì. Fare lavorare lì e vivere lì, sì. Per 6 mesi, poi tornare anche in Italia. Per la lingua. Sì. E poi tornare in Italia, eventualmente intraprendere un percorso universitario di doppiaggio a Roma. Mi piacerebbe fare doppiaggio. Ma molto bello il doppiaggio. Tra l'altro, veramente noi siamo primi al mondo. Abbiamo dei doppiatori fantastici, ne abbiamo avuti e ne abbiamo, e la scuola italiana è proprio... Infatti pensa che sono andato a vedere a Roma un concerto, il concerto di, come si chiama, sono un lapsus, no, lo so, no, dai, quello che... Renato Zero, è un americano famosissimo, dai, adesso dopo ne parliamo la prossima volta, quanto la prossima canzone, dopo mi viene in mente. E lui ha ringraziato parecchie volte, no, parlo di un attore, Woody Allen. Sono andato a vedere il concerto di Woody Allen a Roma quest'anno, che era con la sua band, perché Woody Allen suona il sax in una band americana che si chiama St. Louis Rubber Spirits. Vabbè, lui ha ringraziato parecchie volte il doppiatore italiano, che adesso non c'è più, che è morto, perché grazie a lui ha avuto un grandissimo successo in Italia, perché non è facile doppiare e fare trasparire il personaggio che è in un'altra lingua, Esatto. non è difficilissimo, e lui ci è riuscito. Allora, andiamo avanti. Posso fare una piccola parentesi, sì, sì. Il fatto dei doppiatori. Noi, sì, abbiamo avuto, purtroppo non c'è più, il più famoso, Ferruccio Amendola, per il discorso che facevi prima. Te pensa i personaggi come Al Pacino, come Sylvester Stallone, insomma, se non avessero avuto la sua voce. No, cioè, beh, come il famoso, no? Quello del Gladiatore, no? Scatenate l'inferno, cioè quella voce, no, vabbè, se non avessero avuto la sua voce. Lui è un grande doppiatore, anche lui. Va bene, andiamo avanti con Senza Fiato, questa cantante italiana, il nome è un nome stranissimo, John Tay, Senza Fiato, ed è una cantante. Perché io lo so, però lei come al solito la trova, perché lei è bravo. Ma intanto siamo qui con Ariel, perciò possiamo parlare di tutto. La trovata? Ora la sentiamo. Questo è il titolo, è Senza Fiato. Lei è Jean Tien, non è straniera, è italiana. Sentiamo questo pezzo che a me è piaciuto. Lo sguardo non ero sicura, non ero abbastanza. Ricordo mia madre diceva già ogni tanto c'è la sky passa. Non mi ritrovo dentro il pensiero, visto i 20 anni cambiare da ieri. La voce mi spoglia, sono muta ogni volta. Io canto una lotta, ti senti risolto. Alzi lo sguardo, ti sento sicuro, dici che è l'ultima volta. Che colmi il vuoto con lo spazio che non che peli loro, ma che ordine che fai. E volo, volo via. La cera perdo il controllo. Volevo solo un po' di follia. Che mi porti, porti altrove. Scusa se sono sincero, ma vorrei dire più. E ora che sono senza fiato, puoi darmi un po' tu. E a volte non mi sembra vero, non è facile stare super. Se a volte avrei scommesso tutto, e adesso non ci credo più. Sorrisi nascosti che parlano per ora, a noi bastano gli occhi. Se ci guardiamo diventiamo luce, basta che mi tocchi. Lo sai che ti leggo dentro i pensieri, mi cerchi anche se hai paura di ieri. La voce ci spoglia, siamo muti ogni volta. Io canto una lotta, ti senti risolta. Alzi lo sguardo, ti sento sicuro, dici che è l'ultima volta. Che colmi il vuoto con lo spazio che non hai. Che vedi l'oro nel disordine che fai. Poi che ne so di me, sento l'ansia danzare, perché mi cerco dentro un mondo che non c'è. È tutto dentro la mia testa. Scusa se sono sincero, ma vorrei dire più. E ora che sono senza fiato, vuoi darmene un po' tu. Non mi sembra vero, non è facile stare super. Se a volte avrei scommesso tutto, e adesso non ci credo più. Un bellissimo pezzo. Senza fiato, vedete che vi faccio ascoltare anche dei pezzi, perché voi dovete sapere, cari ascoltatori, amici che siete all'ascolto, che siete in tanti, e poi saluterò dopo, prima di... È la grande discoteca di Radio Fuori Web, la grande cantina di Bologna. Dovete sapere che noi abbiamo la radio a Bologna, davanti alla stazione, sotto c'è una grande cantina, un cantinone immenso, che non c'è vino, non ci sono botti di vino. Ce lo siamo finiti il vino, abbiamo già finito. Il custode sarebbe avuto. Comunque abbiamo un cantinone pieno di dischi, di CD, e io ogni tanto vado là, raspo con le mani, trovo dei pezzi come quello di prima che vi ho fatto ascoltare. Adesso ne ho trovato un altro, l'altro giorno, ho trovato un pezzo rimasterizzato della grande, cara Ariel, non so se tu l'hai mai sentita, Giuni Russo. La grande cantautrice italiana, amica, grande amica di Franco Battiato. Tanti pezzi hanno fatto insieme, una voce unica. Ve lo voglio far ascoltare in un pezzo che in quell'estate meravigliosa, che io ero molto giovane, sentivamo nelle spiagge italiane, facendo i denti. Lo straniero, vai, grande Giuni! Senza voglia di tornare. Musica è come musica, la smania che mi prende di vestirmi da sirene, come una visione magica. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, che voglio andare. colorano un tramonto caldo e mitico. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere che voglio andare. Parla lei perché è arrivato, eh? È arrivato Gianni Cucca, adesso io anche, anche cosa c'entra Gianni Cucca? No, appunto, ci parli lei, no, io mi rifiuto proprio. Ci parli lei, per favore. Un attimo. Ma si può dire? Sì, sono passate le 10, dai, vabbè. Buonasera a tutti, grazie, grazie a tutti, sono Gianni Cucca. Scusate perché c'è la bombola l'ha presa solo oggi. No, c'è il bombolino. C'è il bombolino piccolo. C'è un po' di e i suoi musicisti ci sono? Ah no, uno, perché stasera non suonano. No, uno no, il batterista non c'è più perché l'Alzheimer. l'avete dovuto no, cambiare. L'Alzheimer, allora perché faceva la batteria andava con 5 volte in ritardo. Non andava a tempo. Non si ricordava il tempo. Allora sono venuto perché ho sentito cantare prima la ragazza, io voglio fare i complimenti in diretta. Brava veramente, complimenti Ari. Lei pensi che stasera Barry Knight e Gianni Cucca? Io mi ricordo già perché, quando lo ricapita. Io mi ricordo che quando cantavo nelle navi allora. Sentivo sotto le navi. Una grande cantante che era Rita Pavone. Nei cantieri. Era giovanissima, capito? Allora le voglio fare complimenti perché la musica, io penso, io ho 90 anni, lavoro ancora con la musica. Anzi, volevo dire che sono alla Casina del Bosco. Sono la Casina del Bosco di Rimini. Uno dei più grossi locali di intrattenimento della Riviera Romagnola. Sì, è vicino all'ospizio. Dopo la Cade Contadena. Se venite, io inizio a Selvapiana. Io inizio alle 7 di sera e alle 8 e mezza abbiamo finito. Perché non ce la fanno? No, perché vanno quelli dell'ospizio, vanno a letto. chiudono. Allora, no, era venuto per quello. Ero venuto per complimentarmi con l'aria. Per questa, solo l'aria. Questa bellissima voce e poi per come la sua, guarda, proprio bella pulita. Per pubblicizzare la grande serata di venerdì sera alla Casina del Bosco di Rimini. Va bene. Adesso vado io perché c'è la badante che mi aspetta fuori. Grazie a tutti, ciao ciao ciao. Vado via! Ma perché? Perché? Dai, dobbiamo vabbè, fare anche, dai, dobbiamo fare anche un'altra cosa, perché dobbiamo ricordare assolutamente il mio. Sono una mocciaccia troppo sexy. Chiama a ballare senza trucco e tacchi. Anche per lei che vado tanto i dritti. Tanto che l'abbiamo rovinata, la roviniamo del tutto. Perché? Beh, questo bisogna spiegargli. È innamorato pazzo di Anna Natale. Lui è per la 200. Beh, mucciaccia è... Allora, ma perché non fa l'amore con uno squalo di quello? Dai, lasciamo. Ce la liberiamo per sempre. Insomma, l'altro regista è innamorato di Anna Tartaglia, allora tutte le volte dobbiamo sentire questa bucciaccia. E l'abbiamo messa su per 250 volte. 225 volte. Andiamo avanti, andiamo avanti. Sì, andiamo avanti, andiamo basta. Avanti, parentesi, casteggio abbiamo passato. Che non è mia cugina, ma è una grande cantante di quegli anni 60, grande amica di Giorgio Gaber, che fece questo pezzo, cara Ariel, che ti voglio far ascoltare. Questo pezzo che fu uno scandalo. Perché parlava di una ragazza che ha avuto tanti ragazzi e lo dice nella canzone e ce lo andiamo a ascoltare. Zitella cia cia cia. Vai. Nella mia vita coloro che amai son più di 1000 ormai. Marcello era piuttosto bello, ma non mi andava. Faceva il bidello, oh onorato, l'ho veramente amato, ma c'era un era sposato. E pensare che un giorno ero bella, ma or son rimasta sola. Se nasco un'altra volta non farò più così. Maurizio, ragazzo di giudizio, ma non mi andava, di bere aveva il vizio. Tobia lo presentò la zia, ma l'ha portato via la polizia. E pensare che un giorno ero bella, ma or son rimasta sola. Se nasco un'altra volta non farò più così. Faceva il becchino, poi morti tutto il dì. Olè, olè, olè, zitella, cia, cia, cia. Zitella, cia, cia, cia, che spettacolo, questo pezzo degli anni 70, 60, 65. Ma pensate, Maria Monti con Giorgio Gaber, la Milano di allora, la grande Milano da bere, la grande Milano da bere. Quegli anni meravigliosi in cui Milano ha tirato fuori artisti fantastici. Cara Ariel, siamo quasi addirittura d'arrivo, finiremo con un tuo brano, sarà la nostra sigla questa sera. Ti sei divertita questa sera? Sì, molto. Ti ho fatto ascoltare della roba che non hai mai sentito, di la verità. Sì. Vabbè. È giusto così, è giusto anche sentire delle cose dimenticate. E parlando di cose dimenticate, in un momento come questo, dove anche oggi purtroppo, caro Tiz, un uomo ha ucciso una donna ed è una cosa vergognosa, io come uomo mi vergogno perché tutti i giorni si leggono delle cose schifose, vergognose, omicidi veramente che lasciano senza parole. E volevo ricordare questa cantautrice siciliana che ebbe il coraggio allora, negli anni 60. Lei si chiama Rosa Balestrieri, con questo pezzo che intitola Cuti Udissi. Lei denunciava appunto che doveva sposare un uomo, ma quell'uomo gli dice: io te l'ho detto, io non sono innamorato di te. Perché allora c'era, quando i genitori decidevano, tu dovevi sposare quello che decidevano i genitori nella Sicilia di allora. E lei tirò fuori questo pezzo con la sua grande voce, una voce che adesso sentirai, Ariel, calda, la voce che viene fuori proprio da Sicilia. E te la voglio far ascoltare, la voglio far ascoltare a tutti gli ascoltatori, perché dobbiamo parlare di queste cose, dobbiamo parlarne di questa mattanza che sta accadendo anche in questo momento. Ce la andiamo a ascoltare. Bene, Cuti Udissi, Rosa Balestrieri. Questo dolore, ai ai ai ai, moro moro moro moro, c'hanno del lungo ancora, l'amore mio zitto, ai ai ai ai, moro moro moro moro, c'hanno del lungo ancora, l'amore mio zitto. Lo cuore mi scricchia, picca, picca, picca, picca, ai, ai, ai, ai, moro, moro. atto schifosa che sta scordando mia. Poi facevo ogni carezza mia, ciato di la roba mia, l'amore mio setto. Poi facevo ogni carezza mia, ciato di la roba mia, l'amore mio setto. La grande voce di Rosa Balestrieri, questo messaggio forte che lanciò allora, che ancora oggi purtroppo è di moda, il fatto di queste cose che accadono, di queste violenze contro le donne, e noi combatteremo sempre queste cose vergognose che accadono anche oggi, questi uomini che non accettano di essere lasciati, e uomini deboli, uomini che non hanno carattere zero. Vabbè. Guarda, secondo me gli abbiamo già dato anche troppo rilievo a sta gente. Possiamo sì, onore alle donne, sì, basta, esatto, e esatto, smettiamo di parlare di sta gentaccia che, vabbè. Noi lanciamo anche questi messaggi, Aria, sai, noi ci piace anche raccontare di quello che accade in questo momento. Allora, siamo alla fine della puntata, io ti posso solo dire una cosa, grazie che sei venuto a trovarci. Vediamo che magari fra un anno ci viene a trovare ancora, magari quando fai il secondo album. Certo. Siamo qua. Noi siamo qua, qui è che come diciamo con tutti gli artisti che vengono, è casa vostra, è casa degli artisti. Radio Flyweb è una radio che è aperta a tutte le musiche e a tutti gli emergenti e a tutte le etichette. E non succederà, ma se passate di qui il mercoledì sera, esatto, dalle 9 siamo qua, suonate. Siamo e qua, suonate che vi sarà aperto. Dentro e possiamo fare quello che vogliamo. E sempre la musica è protagonista. Allora, Ari, vuoi dire qualcosa? Di qualcosa al pubblico? Di quello che vuoi. Ma spero che comunque in questa puntata ci sia stato un messaggio sia da parte di tutte le altre cantautrici stupende, bravissime, che anche dalla mia musica, che comunque non è conosciuta tanto. E spero questo, cioè sì, di aver lasciato qualcosa in più. Io potrò dire, ho avuto ospite Ariel, cioè vedi, io già sono contento, cioè vedi, io vedo già avanti, vedi, io potrò dire, ho avuto Ariel come ospite. Bene, allora noi ci salutiamo, intanto ringraziamo tutti quelli che non ascolto, che sono veramente tanti. Sapete che riascolterete questa puntata sabato mattina del podcast, nella pagina di Radio Free Web. Si è corretto subito, lo stavo già riprendendo. Sì, si è corretto subito. Il podcast però era troppo bello. sai che a una certa ora vado. Vabbè, siamo arrivati. Per fortuna non è Alzheimer. No, meno male. Come cucca. allora siamo qui a parlare appunto di questa serata meravigliosa che ci abbiamo passato insieme. Sì. E la ascolterete appunto sabato mattina e la potrete sentire andando nella pagina degli ascoltatori di Radio Follow e anche in tutti i canali Soul Brother. Bene, grazie Ari. Grazie. Grazie a voi. Ci lasciamo prima col nostro urlo. No, dobbiamo fare anche quello. L'urlo, cioè, prima. Ma aspetta. Vai. Prima diamo il titolo. Lack of interest, che in italiano vorrebbe dire mancanza di interesse. Mancanza di interesse. Qualche giovane ce l'ha. Però io sono convinto che dopo questa serata avrete ancora più interesse. Allora, siamo pronti? Al 3 dobbiamo dire tutti insieme ciao, ok? Ok. E dopo il ciao ci sentiremo, ripeto, questo pezzo Lack of Interest cantato da solo Ariel. Pronti? 1, 2, 3 ciao! Have you gone? Where have I? Don't cry my baby, don't say you're done.